domenica 31 marzo 2024 e, come puntualmente accade nelle giornate di Pasqua, riaffiora la polemica delle nostre città che vengono invase dai turisti e che sono ormai trasformate in delle, almeno i centri storici, in delle vere e proprie Disneyland, completamente scollegate dalla vita delle persone che ci abitano in queste città e che ormai considerano le zone turistiche del tutto aliene, come se non ne facessero parte. Sento lamentele persino da persone che vivono a Milano per il fatto che in questi giorni sono state registrate centinaia di migliaia di presenze. Ma addirittura chi lavora proprio nel business dell'accoglienza segnala che anche le famose aree interne, luoghi che consideriamo derelitti, in realtà registrano un boom di prenotazioni. E io credo che sia giunto il momento di chiarire una cosa, cioè non penso sia possibile far convivere la lamentela per i luoghi spopolati, i luoghi desolati, abbandonati, che non hanno un'economia, che non hanno più neanche un indotto, con la lamentela per il fatto che arrivano persone da fuori che chiaramente hanno bisogno di servizi e se noi siamo capaci soltanto di offrire ciò che rende detestabili poi le zone turistiche, no? Cioè questa offerta di basso livello che va incontro esattamente alle loro aspettative, che sono a loro volta aspettative giocattolo, no? Se noi per esempio a Roma non siamo capaci di trasformare il centro storico in nulla di diverso rispetto alla cartolina che queste persone si aspettano, cercando soprattutto magari di concentrarci sul decoro e non su delle narrazioni leggermente più ricche, no? Che riguardino per esempio non soltanto il centro storico ma anche tanti altri quartieri, ecco, se non siamo capaci di portare noi i turisti in altri posti, inutile lamentarsi della loro invasione, è sempre successo e sempre succederà. E non saprei cos'altro aggiungere, forse davvero buona Pasqua, stiamocene nelle nostre case, nei nostri quartieri semicentrali, nelle nostre periferie, separati da tutto, pronti ancora una volta a deprecare quello che succede lontano da noi, qualsiasi trasformazione, qualsiasi novità. Dire che il centro storico turistificato adesso non è Roma è ridicolo, perché Roma è stata sempre negli anni, anche tante cose che non ci piacciono, però rimane Roma, quindi non è che non fa parte di noi. E soprattutto, io ripeto, chi vive in periferia, se rimane in periferia di una città come Roma, è perché appunto esiste una città come Roma, altrimenti andrebbe a vivere a Civitanova Marche, a Garbagnate, a Caltanissetta, andrebbero a vivere in tanti posti dove tutto costa di meno, dove tutto è più facile, dove non c'è un grande traffico e alla fine rimaniamo qua. E se rimaniamo qua è perché comunque c'è un qualcosa che ci serve, banalmente qualcosa che ci serve a vivere, avere una prospettiva diversa, magari anche un centro di servizi dove possiamo trovare un lavoro. Non sarà l'economia migliore che possiamo avere, però se rimaniamo qua evidentemente non ha molto senso continuare a lamentarsi, no? Cerchiamo semmai di, visto che lavoriamo nell'economia dei servizi, di trasformare un po' questa industria dell'accoglienza verso qualcosa di meno simile al castello di Barbie.